Siamo rientrati in diretta, ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori. I 451 frammenti sonori rientra per la seconda parte della puntata di stasera. Chiaramente per qualsiasi informazione o riascoltare le puntate di 451 potete collegarvi sempre al nostro blog, noblog 451frammentisonori.noblogs.org. Seconda parte che abbiamo aperto con questo splendido lavoro del grande T-Maker, musicista assolutamente fondamentale di questi ultimi anni nella scena di una nuova dimensione ambient, con forti elementi rumoristi ma anche dimensioni di richiami piuttosto chiari anche a certe matrici connesse alla musica contemporanea elettronica. T-Maker ormai è un musicista affermato sulla scena internazionale, ha appunto già realizzato parecchi album, in particolare questo è il penultimo album, In Imaginary Country, questa sorta di dimensione quasi naturistica e legata all'ambiente, ma non l'ambiente come ambiente, ma l'ambiente proprio reale, concreto, una sorta di appunto campagna, dimensione esterna, la dimensione cittadina, periferica in questo senso, che si immagina lo stesso musicista, di origine canadese ma ormai stabilmente negli Stati Uniti d'America. In Imaginary Country, uscito appunto alla fine del 2011, abbiamo ascoltato due tracce splendide, e anche per aprire questa dimensione sonora della seconda parte il tema che abbiamo già affrontato attraverso ben quattro autori, Vesabilo, Singer, Loschill e Pan American, nella prima parte, puntata appunto, la ripeto per coloro che si fossero messi in ascolto solo ora, intitolata Suburban Waves parte 2, dato che la prima parte l'avevamo proprio messa in onda lo scorso anno, esattamente nel dicembre 2011. Questa è la seconda parte, l'abbiamo declinata con il sottotitolo Sogni e incubi dalle metropoli occidentali, le periferie in questo caso delle metropoli occidentali. E abbiamo soprattutto nella prima parte della puntata sviluppato un suono che si può definire sicuramente più caldo, e in parte, anche se la definizione è un po' ardita, solare come dimensione sonora, come effetto appunto empatico, mentre questa seconda parte si muoverà su dei territori più oscuri, più legati alla dimensione dell'incubo del periferico metropolitano negli anni della crisi. Non a caso gran parte degli album che abbiamo messo in onda e che metteremo in onda anche in questa seconda parte si svilupperà tra il 2008 e il 2012, gli anni proprio della crisi mondiale economica capitalistica che sta colpendo soprattutto le periferie, i ceti più deboli, le classi popolari, che vengono massacrate e devastate in Europa ma anche in altre parti del mondo, in particolar modo negli Stati Uniti, soprattutto nei primi 2-3 anni, ma ancora adesso insomma il massacro economico è abbastanza forte. Siamo passati attraverso varie città americane come Chicago, arrivando anche a Detroit, e ci ritorneremo poi a Detroit, che è una città piuttosto importante, soprattutto legata allo smantellamento sviluppato dagli anni 80, in particolar modo dalla grossa industria automobilistica. E se si va appunto a esplorare quello che è rimasto di Detroit, i sobborghi, le periferie, sono dimensioni appunto quasi post-atomiche, macerie, case distrutte, dimensioni devastate, livello di povertà, e dunque una dimensione che si aggancia perfettamente anche rispetto alla crisi che invece ha colpito gli Stati Uniti e poi l'Europa e il resto del mondo in questi ultimi anni. E abbiamo appunto aperto con T-Maker da questo disco, e adesso andremo a presentare il prossimo autore, che appunto è legato particolarmente alla dimensione di Detroit. Parliamo di un musicista non particolarmente conosciuto, anche perché si è affacciato musicalmente in questi ultimi 2 anni. Si tratta di Christopher Bissonnette, musicista appunto che è stabilmente legato a Detroit, ha partecipato a vari festival di musica elettronica d'avanguardia negli anni tra il 2008 e il 2009. In questi ultimi 2 anni ha fatto uscire 2 album assolutamente splendidi, usciti oltretutto uno per la Cranky, che abbiamo già ascoltato, un paio di autori sempre genere prodotti dalla Cranky nella prima parte della trasmissione di stasera, e poi per la Home Normal, l'album proprio ultimo uscito alla fine del 2011. Noi però andiamo a pescare l'album diciamo più importante della storia, seppur breve, di Christopher Bissonette, che è In Between Worlds, un album estremamente scuro, un ambient drone piuttosto inquietante, appunto, che richiama una dimensione onirica connessa all'incubo, e dove anche elementi quasi concretisti emergono fra una traccia e l'altra, a dimostrazione di un autore che cerca appunto di coniugare elementi anche connessi alla contemporanea concretista con la dimensione più invece squisitamente ambientale. Ce l'andiamo a sentire, dunque percorriamo, diciamo, questo sorta di solco dell'incubo, per poi riemergere attraverso dimensioni più ritmiche, più legate alla techno ambient dub, ma anche queste sempre piuttosto scure. Intanto apriamoci la strada con Christopher Bissonette. Thank you. Thank you. E siamo rientrati in diretta, abbiamo fatto un mix collegato a Christopher Bissonette dall'album Between Worlds, splendido lavoro ambientale con alcuni elementi concretisti, per poi aprirci in una sorta di dimensione dabbeggiante con un altro progetto piuttosto importante della scena techno dub, come i Comforts, che hanno fatto uscire proprio in questi ultimi anni 3 album. Abbiamo ascoltato proprio l'album di esordio del 2010, Machine Conspiracy, per la Meanwhile, che poi in realtà Comforts, anche questo, è un one man band. Si tratta di Boris Banning, che è un autore e musicista olandese che appunto ha iniziato a studiare già da molto molto giovane la musica, fondamentalmente l'house di Chicago, la prima house di Chicago, in particolare Larry Heard, e la techno di Detroit degli anni 90, in particolare con Planet A, Warp, per arrivare anche allo studio e alla ricerca di tutti i progetti connessi alla scena del dub di Berlino, in particolare Basic Channel, e mischiando appunto tutte queste 3 aree musicali per creare un proprio sound che effettivamente è molto caldo, abbastanza da club, non particolarmente sperimentale, ma adatto anche a declinare un suono particolare da inserire all'interno appunto di queste dimensioni, di queste architetture sonore suburbane delle periferie delle metropoli europee. Ed è un modo appunto per ricercare anche in tutta la scena anche del club dance un certo suono che può emergere appunto negli anni della crisi. Abbiamo appunto ascoltato Machine Conspiracy, che è un brano molto dabbeggiato. Tutto l'album in realtà si muove su questa dimensione techno dub, che sicuramente lo fa emergere come un disco sicuramente interessante, anche se non particolarmente ricercato o sperimentale. Da Comforts andiamo ad aprire invece un altro universo, andando a scovare un italiano che si fa chiamare Kinetics, Gianluca Becuzzi, che già da parecchi anni gira in Europa e soprattutto si è agganciato a etichette tedesche e anche nord europee per muoversi appunto all'interno di una techno dub e di una techno estremamente scura e sperimentale, trovando appunto degli elementi anche molto molto interessanti, molto molto scuri sicuramente, collegati anche a un certo ambient più di ricerca e più rumorista. Abbiamo selezionato da questo autore un album che ci è sembrato il più interessante, uscito nel 2010 per la Silence Minimal Edition Final Archives, con alcuni aspetti anche minimali che noi non è che ci garbano moltissimo. La techno minimal, la minimal, così la definiamo e così la definiscono in molti, ormai sta diventando qualcosa veramente di senza senso e soprattutto molto manieristica e autoreferenziale. In alcuni momenti effettivamente Kinetics cade e scade un po' dentro questo universo, ma in particolare in questo album ci sono alcune tracce, tra cui quella che abbiamo selezionato, che può dare anche un'idea di profondità, di oscurità e di macerie connesse appunto al tema di questa serata. Ce l'andiamo dunque a ascoltare, Kinetics, album Final Archives 2010. E siamo ritornati in diretta con ancora gli scricchioli, appunto, delle macerie che vengono espressi dal generale Mika Vaino, che abbiamo mixato allo splendido lavoro che abbiamo appena ascoltato, mandato in onda, questo viaggio oscuro quasi nel profondo degli inferi di Kinetics, da Final Archives. Abbiamo mixato lo splendido lavoro estremamente sperimentale, che mischia elementi industrial, noise, l'elettronica dirompente, martellante, ossessiva dei grandi Pansonic. Mika Vaino, insomma, molti lo conoscono, è uno dei Pansonic che ha portato avanti anche, ovviamente, dei progetti personali paralleli, tra cui questo che abbiamo orora fatto ascoltare, Black Telephone of Matter, uscito nel 2009, a dimostrazione appunto di questi territori oscuri, inquietanti, anche rabbiosi, che raccontano sicuramente anche una dimensione figlia di questi anni di crisi, di difficoltà economiche, di tagli sociali, di devastazione, come quelli appunto che sono iniziati a partire, anche se in realtà il capitalismo ha sempre devastato le periferie, i ceti sociali più deboli e le dimensioni appunto più popolari, ma ovviamente in questi ultimi 5 anni di crisi profonda la dimensione della devastazione che viene rappresentata anche a livello sonoro, a livello artistico, in questo caso da Mika Vaino, da Black Telephone of Matter, sicuramente c'è questa dimensione post-atomica, post-distruttiva, che noi stasera abbiamo voluto rappresentare attraverso il percorso sonoro di Suburban Waves, parte seconda. E da Mika Vaino andiamo a spostarci nei territori più ambientali, anche se piuttosto scuri ed inquietanti, sempre dentro la dimensione dell'incubo. Abbiamo creato questa dualità, sogni e incubo, dalle periferie delle metropoli occidentali nel tempo della crisi, e Evan Caminiti, questo autore che ormai stabilmente presente negli Stati Uniti, anche se è originario anch'egli del Canada, è musicista sicuramente legato alla dimensione ambientale, come poi verrete inondati dal suono estremamente vasto e sicuramente aperto da parte di Eva Caminiti nell'album Dreamless Sleep, che andremo adesso ad ascoltare, uscito per una grande etichetta come la Thrill Jockey proprio quest'anno, dunque una novità. E anche se in realtà lui esce da un'esperienza passata legata più all'impro radicale, fa abbastanza pensare, ma sicuramente abbiamo trovato anche altri musicisti, autori che si sono poi imbattuti attraverso meandri strani, percorsi personali assolutamente unici, si sono imbattuti appunto dentro e contro l'elettronica ambientale. Non è il primo caso, insomma, però colpisce sempre il fatto che autori come Evan Caminiti, che partono dall'impro radicale, arrivino poi a dimensioni elettroniche ambientali che molte volte potrebbero non essere collegabili. L'album in questione, appunto, è un disco che è stato molto ben recensito da molte riviste specializzate, ma anche dagli ascoltatori che comunque l'hanno seguito, anche se lui ha iniziato già da alcuni anni a portare avanti progetti elettronici, ma quest'anno sicuramente con questo disco Dream and Sleep riesce a ottenere la sua maturità musicale. Ce l'andiamo a sentire, dunque, Dream and Sleep, Evan Caminiti. Continuiamo il nostro percorso, il nostro viaggio nella dimensione dell'inquietudine e anche della sofferenza, e nonché della rabbia, dentro le strade, le vie e i percorsi suburbani in tempo di crisi. Assolutamente evocativo questo splendido brano di Evan Caminiti, ma tutto il disco merita estrema attenzione, un ottimo lavoro. Si è sentito oltretutto questa splendida chitarra che appunto evocava dimensioni sonore, ambientazioni, quasi appunto una sorta di colonna sonora di un film, di un documentario, di immagini. Comunque saltano alla mente delle immagini che vengono evocate appunto da questa dimensione sonora, da questa splendida chitarra che è molto espressiva e sviluppa in questa sorta di suono rumorista, chitarristico, dentro questo flusso invece ambientale, elettronico, una dimensione assolutamente anche onirica, che si inserisce perfettamente dentro un quadro di immaginazione connesso appunto alla devastazione, alle macerie, al fattore appunto deflagrante che poi ha prodotto una serie di rifiuti, di calcinacci appunto, di edifici distrutti o abbandonati, di fabbriche dismesse, di dimensioni urbane completamente cancellate e recluse dentro una dimensione sempre più misera e quasi connessa a una forma di prigionia sociale e architettonica. Tutto questo per entrare poi nel tema connesso alla distruzione prodotta dalla crisi, a quello che già incominciamo a vedere, ma che probabilmente possiamo immaginarci rispetto anche qualche anno verso il futuro, quello che produrrà e quello che creerà in termini appunto di distruzione. E attraverso questo flusso sonoro, ambientale ma anche rumorista e per certi versi anche evocativo di una certa musica industriale, entriamo verso il brano, diciamo, l'autore di chiusura di questo percorso sonoro. Andiamo a trovare Lauren Connors, un chitarrista che ormai è da quasi 40 anni sulla scena musicale, chitarrista eclettico, attraversato veramente tutte le dimensioni espressive, linguaggi, dal rock al jazz, all'improvvisazione radicale, alla sperimentazione connessa all'elettronica, alle dimensioni ambientali, come in questo disco uscito nel 2011 per la Family Wainwright, Red Mars, dove appunto Connors fa emergere la sua parte più espressiva, più profonda, anche più scura e inquietante del suo pathos sonoro. La chitarra utilizzata come strumento al di là appunto dell'utilizzo canonico, un suono che si può intravedere come suono chitarristico, ma che come concetto, come idea, va anche oltre lo strumento in sé. Un splendido lavoro, anche molto intimista, ecco, questa è una parte che forse vuole essere collocata proprio in questo punto del flusso sonoro di stasera, al punto finale, proprio per entrare non soltanto in una dinamica di esplorazione di nuove sonorità dentro appunto le periferie suburbane delle metropoli occidentali, ma anche attraverso una sorta di viaggio anche intimo, personale, individuale, che è sempre connesso alla ricerca complessiva della tendenza umana, in questo caso sonora, musicale, delle progettualità sperimentali dentro i periodi storici che stiamo attraversando, che probabilmente attraverseremo anche per altri anni e che forse si trasformeranno in qualcos'altro. Comunque le tendenze musicali che abbiamo raccolto anche tra il 2008 e il 2012, attraverso ovviamente una nostra scelta stilistica personale connessa al nostro gusto, alla nostra immaginazione, alla nostra ideazione ipotetica di quello che potrebbe essere rappresentato attraverso questi progetti sonori, la devastazione e anche la forza creativa, la forza di reazione di tante dimensioni individuali artistiche verso una dimensione nuova, sicuramente più creativa, più stimolante, dentro appunto momenti e periodi storici di forte difficoltà. Lauren Cornos dunque chiude questo nostro viaggio sonoro, spero che sia stato interessante, comunque curioso entrare dentro questa sorta di racconto attraverso il percorso sonoro di stasera, un racconto appunto anche che può essere pensato, immaginato come racconto anche filmico o connesso comunque a immagini. Andiamoci dunque a sentire l'ultimo brano in chiusura, ovviamente poi partirà la nostra sigla e ci sarà il classico nastrone di Radio Città del Capo. Noi ovviamente ci ritroviamo sempre domenica prossima, a meno che non escano fuori altre primarie, non so di che cosa, ma dovremmo essere abbastanza sicuri di essere presenti domenica sempre alle 23:30 circa su Radio Città del Capo. 451 frammenti sonori vi augura una buona nottata con Red Mars. Thank you.